Siamo in collegamento con Alfonso Perrotta, autore del libro L'umano divenire, cronache paolane del Novecento e la bandiera rossa dell'avvocato De Luca, che sarà presentato venerdì prossimo 16 giugno alle ore 17:30 alla sezione Ampi del Villaggio Globale. Grazie, buongiorno. Allora, ben ritrovato. E, allora, per chi ci ascolta, diciamo subito di cosa si tratta, cos'è questo libro, Alfonso? Allora, il libro tratta, praticamente fa la biografia di Raffaele De Luca, un avvocato del mio paese di nascita, Paola, in Calabria. E, soltanto che Raffaele De Luca poi negli anni, verso la fine degli anni 20, dopo l'avvento del fascismo, viene a Roma e pian piano praticamente ricostruisce prima il gruppo Scintilla e poi insieme a tanti altri compagni il gruppo di Bandiera Rossa. Quindi diciamo che il libro rientra anche in questa nuova storiografia della ricostruzione dell'apporto dei meridionali alla lotta di resistenza, perché spesso si dice giustamente che con l'8 settembre il meridione ormai era stato completamente liberato dai fascisti e dai tedeschi, però poi molti meridionali, o perché abitavano diciamo nel centro nord oppure perché erano militari, partecipavano invece attivamente alla lotta di resistenza. E De Luca nel 43, bisogna tenere presente che già aveva 70 anni, quindi era una persona adulta con un suo passato. Quindi il libro ricostruisce un po' la storia dal momento in cui lui è stato uno dei fondatori del Partito Socialista ed è stato uno dei protagonisti del socialismo calabrese, in particolare quello cosentino. Senti, com'è partito tutto il progetto e su quali documentazioni hai lavorato? Allora, il progetto è nato, guarda, è una ricerca, difatti il mio libro è completamente autoprodotto. Il mio intento era quello di socializzare un lavoro di ricerca. È partito proprio dal fatto che diversi anni fa lessi su Indimedia proprio un articolo su Bandiera Rossa e si diceva un protagonista dimenticato della resistenza romana, e trovai il nome di De Luca. Fino a quel momento, anche se sapevo della storia di Bandiera Rossa perché avevo conosciuto chiaramente Orfeo Mucci anche personalmente, c'era mai sfuggito questo legame con il mio paese e questo dirigente con De Luca. E qui ho cominciato a fare un lavoro di ricerca nell'archivio di Stato centrale, quello all'Euro, poi nell'archivio di Stato romano, alla Fondazione Gramsci, ad alcune altri siti e biblioteche, qui la biblioteca Giustino Fortunato di storia moderna e contemporanea, più chiaramente gli archivi a Cosenza nel mio paese. Quindi ho trovato una serie di documenti che mi hanno permesso quindi di fare questo lavoro con una serie di documenti, perché l'idea era quella di ricostruire, cioè, la storia di uno e la storia di tutti. Il libro infatti è, diciamo, c'è una gran parte che riguarda la storia di Paola, di questo paese del meridione, con una classe dei ferrovieri molto forte, importante, con connotazione anche anarchica, quindi di ricostruzione, di lotte dei ferrovieri durante il biennio rosso e così di seguito, in cui praticamente questo De Luca è stato sempre una persona presente. Quindi è pieno di documenti e anche di nominativi, proprio per l'idea di dare, l'idea che era quella di una coralità, cioè di persone che ognuno poi nella storia mette qualcosa, insomma, no? Alfonso, a proposito della moderna storiografia, c'è stata comunque una rivalutazione a livello anche più diffuso del movimento e dell'esperienza Bandiera Rossa, che nelle borgate romane ha rappresentato un'identità importante con migliaia e migliaia di persone, delle tessere di cui ho avuto modo anche di averne una copia originale, ed c'erano alcune borgate romane che erano completamente liberate già prima della liberazione di Roma, in cui i tedeschi e i fascisti non si azzardavano ad entrare. E questo movimento così ampio aveva i suoi pro e i suoi contro, tra i quali insomma anche molte infiltrazioni, e ha pagato un durissimo prezzo in termini di militanti arrestati e poi torturati. Sì, è chiaro, sì. Sì, Bandiera Rossa ha avuto un numero di militanti anche uccisi alle fosse ardeatine oppure a Forte Bravetta, eccetera. È chiaro, era un movimento popolare. A Torpignattara sì, la chiamavano la Libera Repubblica di Torpignattara, no? Proprio sì. Perché i fascisti non avevano mai più accesso anche attorno alla Certosa, dove si quadrarono. Dopo il libro famoso di Corvisiere, che ormai del 1966, c'è stato sicuramente negli ultimi anni un nuovo interesse attorno a questa formazione, a quelle formazioni diciamo che sono state fuori anche dal CLN, insomma, che non hanno accettato quel compromesso con i partiti che venivano ritenuti responsabili dell'avvento del fascismo. E spesso su Bandiera Rossa si dice sì, che in qualche modo il tipo di non c'era una grande rigidità nelle regole cospirative, questa ha permesso anche l'infiltrazione. In realtà c'è questo, ma c'è anche l'aspetto che Bandiera Rossa, oltre a essere un movimento politico con una sua diciamo anche base ideologica e teorica, era anche un gruppo molto popolare. Sì. E formato anche da sottoproletari, che quindi diciamo avevano anche una certa spacconeria nel fare delle azioni che altri invece, per esempio i GAP, avevano una disciplina molto più ferrea e molto più forte, e quindi questa l'hanno in parte pagata, no? Senti Alfonso, anche per chi ci ascolta, soprattutto per i più giovani, quali erano, su quali direttrici si muoveva Bandiera Rossa a livello anche ideologico? Quali sono i suoi punti di forza a livello politico e come elaborazione? Loro, dimmi. No, era questa la domanda. Sì, loro chiaramente si rifacevano alla rivoluzione d'ottobre, sì. Anche se poi non sapevano, e quindi si rifacevano anche diciamo a Stalin, anche se poi non sapevano quello che stava accadendo in Russia, ma sapevano invece lo sforzo dell'Unione Sovietica nella lotta contro il nazifascismo. Nello stesso tempo, proprio perché era un movimento eterogeneo, le personalità che hanno costituito questo gruppo erano di formazioni diverse, andavano da vecchi comunisti ad anarchici. Lo stesso De Luca nella sua gioventù aveva partecipato a gruppi anarchici a Napoli, e quindi avevano una visione comunque di una democrazia più rappresentativa, meno organizzata e meno burocratica. Sì. E quindi volevano effettivamente una partecipazione dei lavoratori alla produzione. Quindi erano un po' questi, oggi lo potremmo chiamare un comunismo libertario. Mm-hmm. Se possiamo diciamo sì. Dare proprio una definizione sì, a questo sì. Gruppo. Sì. Però poi negli anni è stato in qualche modo presente nella polemica con il Partito Comunista, questi venivano definiti come trotskisti, poi venivano definiti come anarchici. Insomma, c'è stato poi diciamo nel tempo ognuno ha cercato di tirare verso la propria parte, no, questo gruppo. In realtà bisogna dire che era un gruppo abbastanza composito, sì. E quindi è veramente un movimento comunista, insomma. Questo poi, per quanto queste polemiche riguardo i quadri, perché poi a livello di base molte azioni a Roma venivano compiute anche da appartenenti ai GAP e di Bandiera Rossa unitamente, insomma, questo per quanto riguarda i partigiani che abbiamo avuto modo di conoscere negli anni anche attraverso la nostra radio e la nostra trasmissione di memoria storica. Alfonso, ci racconti e cioè, ci descrivi un attimo la giornata di venerdì, come sarà organizzata? Allora, venerdì alle 5:30 ci vediamo a Villaggio Globale, dove verrà presentato il libro, e ci saranno Modesto Di Veglia, appunto, che è un partigiano di Bandiera Rossa e presidente della sezione Ampi San Gallo di Centocelli, poi c'è Anna Maria Spognardi, che è la presidente della sezione Ampi di Villaggio Globale, e Rinaldo Leonardi, che invece è vicepresidente dell'Ampi Roma. Poi segue la proiezione di un documentario del 2001 che si chiama Bandiera Rossa e Borsa Nera. È stato fatto da Andrea Molaioli, non so il regista, la ragazza del lago, per intenderci, del gioiellino. Questo documentario è tratto dal diario di Gloria Chilanti, cioè la figlia di Felice Chilanti, che all'epoca, durante il 43, aveva 14 anni, e quindi raccontava in questo libro, nel documentario racconta la sua esperienza da adolescente, che comunque viveva quel periodo sia come adolescente ma anche impegnata a portare gli esplosivi in bicicletta o portare i messaggi da una parte all'altra della città, e partecipare quindi attivamente alla lotta di resistenza nei 9 mesi di occupazione nazista di Roma. Bene, allora Alfonso, ricordiamolo, Alfonso Perrotta, autore del libro L'umano di venire, cronache e paolane, del Novecento e la bandiera rossa dell'avvocato De Luca. Presentazione del libro venerdì 16 giugno alle ore 17:30 alla sezione Ampi del Villaggio Globale qui a Roma. Alfonso, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ti ringrazio, ciao. Ciao.